l'autore, in questo caso abbiamo come ospite questa sera Alessandro Marzomagno, accompagnato dalla giornalista Lorena Monforti, e rientra nella rassegna una tale di libri organizzata anche dall'azienda di soggiorno che, come negli anni precedenti, vede in alcune giornate anche coinvolta la biblioteca provinciale, una biblioteca che da settembre si trova nel centro Trevi, a Piano Terra, e che settimanalmente, come sapete, organizza degli incontri per la promozione alla lettura. In questo caso stasera è qui con noi appunto l'autore di un bellissimo libro, Missione Grande Bellezza, ci spiegherà appunto questo rapporto tra i conflitti e, diciamo, il latrocinio, il depredare appunto i paesi conquistati delle opere d'arte, quindi delle parti più significative di quelle che sono le testimonianze, le espressioni e il valore di un paese, di una cultura. Io lascio subito la parola ai nostri ospiti perché siamo un po' in ritardo e soprattutto la giornata oggi non è stata clemente con noi visto il tempo, quindi direi di partire con la nostra iniziativa ringraziando soprattutto appunto i qui presenti Alessandro Marzomagno e Lorena Monforti. Grazie. Grazie. Allora, buonasera. Accesissimo, parecchio acceso, no? Funziona, bene. Allora, buonasera a tutti, ringrazio il pubblico qui presente in sala, fa sempre molto piacere vedere che c'è interesse intorno ai libri. Ma usa questo. Questa funziona questo. Ecco. Allora, riprendo dalla sensazione, insomma, piacevole di vedere un pubblico interessato ai libri. Ringrazio il Centro Trevi che ha ospitato questo incontro, ringrazio naturalmente la direttrice Valeria Trevisan, che è stata promotrice, organizzatrice e con la quale appunto ci siamo trovate molto in sintonia sulle proposte da presentare. Ringrazio anche l'azienda di soggiorno di Bolzano che ha reso possibile questo incontro. Allora, mi permetto di darti del tuo, Alessandro, visto che ci conosciamo da... Possiamo anche rivelare questo particolare. Ci conosciamo da vent'anni. Da vent'anni. E quindi io partirei subito con una serie di cose. Insomma, innanzitutto ho trovato durante la lettura, insomma, un'estrema originalità di argomenti che spesso non, anzi quasi mai, vengono poi trattati. A molti di noi è capitato, insomma, di visitare pinacoteche, musei, gallerie, e le domande che ci si pongono, insomma, di fronte a un quadro sono altre: chi è stato l'autore, in quale periodo ha lavorato, ha operato, o per gli addetti ai lavori magari ci si perde in dettagli tecnicistici. Ecco, il libro di Alessandro svela invece tutta una serie di dati che sono intorno alla storia di dipinti, capolavori, ma non solo, parliamo anche di statue, parliamo di oggetti, manoscritti, libri, quindi parliamo di cose appunto e di tutta una loro vita che non si conosce. Spesso qualche storico dell'arte storce la bocca e prova fastidio quando si accostano i saccheggi ad opera dell'esercito napoleonico e quelli invece operati dai nazisti. Ecco, come mai questa allergia e questo fastidio? Grazie. Beh, intanto grazie a tutti di essere qui sfidando una situazione abbastanza di intemperie per essere arrivati fino a questa sala, e quindi mi fa molto piacere ovviamente essere a Bolzano anche in questo periodo in cui la città assume una veste così particolare. E dunque, comincio a rispondere alla tua domanda, poi riprendo quello che dicevi, se mi ricordo, che me lo ricordi tu, di come conosciamo i quadri, eccetera, perché agli storici dell'arte nell'orticaria se si affiancano questi due saccheggi? Beh, è una cosa che non sapevo neanche io. Io ho preso in considerazione le vicende dal punto di vista dei derubati, no? Per cui se io ho a casa un Tiziano, vi assicuro che non ce l'ho, per cui non vi preoccupate, se ho a casa un Tiziano mi cambia molto poco che me lo portino via i francesi o i tedeschi, che adesso si trovi a Parigi o a Berlino, alla fine io quel quadro lì non ce l'ho più. Però è vero che alle spalle di queste azioni di saccheggio c'erano delle pulsioni diverse, c'erano delle ideologie diverse, e il saccheggio napoleonico alla fin fine ci dà il museo moderno e ci dà la concezione dell'opera d'arte che abbiamo noi oggi, cosa che invece non si può dire per il saccheggio nazista. Intanto, perché questi due saccheggi? Perché sono i due grandi saccheggi bellici, per cui parliamo di saccheggi bellici, nei quali viene coinvolta più o meno tutta la penisola italiana. Ovviamente di saccheggi ce ne sono stati altri, di furti ce ne sono in continuazione, anche ai nostri giorni, purtroppo. Ci sono stati anche altri saccheggi bellici, ma localizzati, per tutti il sacco di Roma nel 1527. Roma è stata svuotata dai lanzichenecchi. Pensate che si dividevano le pietre preziose con le pale, tanto per dire, però era localizzato a Roma. Invece questi due episodi coinvolgono più o meno tutta Italia, più o meno, magari l'Italia meridionale nel saccheggio napoleonico è stata coinvolta meno. Appunto, l'idea che stava alla base del saccheggio napoleonico era quella di liberare le opere d'arte. Le opere d'arte stavano nell'oscurità dei monasteri, delle clausure, non potevano essere viste e quindi bisognava renderle disponibili per il popolo. Tutti hanno diritto di godere dell'arte. Ecco, questa fra tutti hanno diritto di godere delle opere d'arte è quello che pensiamo anche noi. Anche per noi oggi è così. Noi oggi pensiamo che l'opera d'arte sia un patrimonio dell'umanità e che tutti abbiano diritto di poterla vedere. Tanto per esempio che quando opere d'arte famose sono in mano a privati, c'è la clausola che le imprestino ogni tanto per delle esposizioni, in modo che anche le opere d'arte di collezioni private possano essere viste. E questo ci deriva dalla concezione napoleonica dell'opera d'arte. E inoltre a Napoleone dobbiamo i musei moderni. Il Louvre, che era la glorificazione di Napoleone, e quindi le opere d'arte liberate venivano portate nella città libera per eccellenza, cioè Parigi, ma alla fine i musei e le pinacoteche moderne nascono da lì. Cioè la Pinacoteca di Brera a Milano nasce come Louvre del viceregno e infatti viene formata con lo stesso criterio con cui è stato formato il Louvre, cioè di impossessarsi, di prendersi quello che si voleva. Motivo per cui, per esempio, a Brera oggi c'è la più importante collezione di arte veneta del mondo, perché poi dopo il congresso di Vienna gli austriaci, che il Lombardo-Veneto diventa parte della monarchia asburgica, gli austriaci decidono di non ridare niente a Venezia perché la capitale stava a Milano, e per cui e poi perché c'è una lunga tradizione di inimicizia tra la Serenissima e l'Austria, per cui lasciano tutto a Milano e non restituiscono niente, mentre restituiscono parte delle opere d'arte che erano state saccheggiate nello stato della Chiesa, a Bologna per esempio, la Pinacoteca di Bologna e le Gallerie dell'Accademia di Venezia, che sono appunto tutt'oggi due delle gallerie più importanti che ci siano in Italia, nascono in epoca napoleonica con le opere d'arte prese dagli enti religiosi soppressi, e quindi opere d'arte mostrate. Di più, la Pinacoteca Vaticana a Roma, che c'era già, ma si sviluppa e diventa la Pinacoteca Vaticana che conosciamo noi oggi grazie alle opere d'arte che tornano da Parigi. Poi ne parleremo meglio, ma insomma, uno di questi personaggi del libro, cioè di questi eroi che io chiamo gli eroi che vanno a recuperare le opere d'arte, che era Antonio Canova, va a Parigi, riporta indietro una serie di opere d'arte importantissime che erano state saccheggiate a Roma, ma queste che erano state saccheggiate nello stato della Chiesa, non a Roma, ma queste opere d'arte tornano a Roma con la clausola che non vengono più restituite ai luoghi d'origine, tra l'altro provocando grosso scontento negli enti. Voi pensate a un monastero umbro, dico per dire, che aveva un Raffaello, ma poi è andata così, aveva un Raffaello, questo Raffaello torna a Roma e dice: beh, adesso ce lo ridate? No, ce lo teniamo noi. Perché? Perché era stata, noi intendo dire Roma, intendo dire Vaticano, perché c'era era stata proprio una clausola chiara che le opere d'arte dovevano essere esposte, quindi nasce la Pinacoteca Vaticana. Quindi tutte queste, diciamo, eredità che abbiamo ai nostri giorni, noi neanche lo sappiamo, noi non ce ne rendiamo conto, sono dovute all'epoca napoleonica e quindi in qualche modo anche a quel saccheggio. Di più, perché c'era anche l'avversario del saccheggio, che era Quatermaire de Quincy, che scrive queste, delle lettere, le lettere a Miranda, che era un generale venezuelano, in cui ipotizzava che le opere d'arte non dovessero essere sottratte al loro contesto, che l'opera d'arte nasce in un determinato contesto e vale perché sta in quell'ambiente. Allora, se ci pensate bene, è la concezione che abbiamo noi oggi. Questa l'idea di Quatermaire de Quincy era stata respinta in epoca napoleonica, perché l'idea era quella di fare i grandi musei, di concentrare le opere d'arte in luoghi facilmente accessibili, appunto il Louvre a Parigi, la Pinacoteca Milano America, nel centro delle grandi città, dove fosse facile andare. Oggi invece non è più così. Noi oggi, e questo è esattamente quello che pensava Quatermaire de Quincy, tendiamo a lasciare le opere d'arte nel loro contesto, cioè nel luogo dove sono state create o perlomeno dove sono state ritrovate, in cui hanno a che fare. Pensate alla Venere di Morgantina, pensate ai bronzi di Riace, al grande dibattito se stiano meglio a Riace o se stessero meglio, non so, al Museo Archeologico Romano. Ma l'idea che c'è, ma non solo in Italia, un po' dappertutto oggi, è quella: l'opera d'arte deve stare nel suo contesto. Per cui noi dobbiamo tutto a quell'epoca, all'epoca napoleonica e in qualche modo anche al saccheggio napoleonico. Il saccheggio nazista invece era tutta un'altra cosa, perché intanto insomma i personaggi che si impossessavano di opere d'arte erano due: Hermann Göring e Adolf Hitler. Hermann Göring voleva mettere insieme la più grande collezione d'arte privata d'Europa e ci è riuscito, perché all'inizio del 1840 la sua collezione era la più importante di tutte, e il criterio con cui raccoglieva opere d'arte Hermann Göring era soprattutto che ci fossero donne nude, cioè raccoglieva nudi, tanto che a un certo punto si mette la Dana e di Tiziano sopra il letto, no? sul soffitto della camera, tipo specchiera di bordello, poi dopo si è stufato e l'ha messa come testiera nel letto. E invece Hitler aveva un'idea un po' diversa, un po' meno greve rispetto a Göring, che era quella di creare il Führersmuseum a Linz, dove ci doveva essere la città dove non è nato ma dove aveva studiato, e la città insomma dove era stato ragazzino. Doveva creare questo museo, che doveva diventare il museo più grande del mondo, doveva avere una serie di opere d'arte, e quindi raccoglieva opere d'arte per questo Führersmuseum, che poi non ha mai visto la luce. Però pensate che ancora nel bunker di Berlino, cioè con le truppe sovietiche a poche centinaia di metri, pochi giorni prima di uccidersi, io ritengo che si sia ucciso. Non apriamo la parete su Hitler vivo come Jim Morrison o Elvis, lasciamo stare. Comunque, pochi giorni prima di uccidersi, era lì che studiava ancora come fare questo museo. Aveva un plastico, muoveva le parti del museo, cambiava questo plastico che aveva nel bunker, perché era la sua idea di autoglorificazione. Ecco, quindi è facile capire in base a questo perché gli storici dell'arte non accettino che siano affiancati questi due saccheggi. Insomma, devo dire che alla fine c'hanno anche ragione. Io sono partito, infatti spesso per ridere racconto, no, perché ho scritto questo libro, parlare male di Napoleone, perché appunto io, nato a Venezia, lo scrivo anche nell'introduzione, sono cresciuto a latte antibonapartismo, perché quando ero bambino i genitori parlavano in giro di questi celebrati a Napoleone, di qui c'era una chiesa che ha distrutto Napoleone, le opere d'arte che hanno saccheggiato Napoleone. Poi in realtà, insomma, quando si approfondiscono le cose si vede che stanno in maniera un po' diversa, ecco. Quindi ho dovuto ammettere, mio malgrado, che insomma qualcosa di buono non è venuto. Ecco, allora Alessandro, ti ringrazio intanto di questa piacevolissima narrazione. Allora, io farei un salto indietro e tornerei appunto nel 1815, quando Antonio Canova viene appunto incaricato dal cardinale Consalvi a compiere quella che inizialmente sembra una missione impossibile, ovvero recuperare tutta una serie di capolavori che erano stati saccheggiati e depredati dalle armate napoleoniche. Ecco, inizialmente Canova, come è visto, perché tempo addietro, insomma, lo stesso Napoleone gli aveva commissionato diverse opere. Ecco, viene chiamato, tu scrivi che viene chiamato addirittura con il termine dispregiativo di imballatore, per cui immagino cosa dovesse provare, insomma, di fronte all'allora direttore del Museo del Louvre, che non aveva nessuna voglia di restituire queste opere. Ecco, ci racconti un po' lo scenario con i vari personaggi che poi aiutano Antonio Canova, insomma. Sì, questa è una storia che si racconta, non si sa se sia vero che la coniata Talleyrand, è vero che lo chiamavano imballeur, ma si dice che a un certo punto Canova, inviato, ambasciatore del Papa, quindi inviato di Pio VII a Parigi, sia stato presentato a Talleyrand, ministro degli esteri del ricostituito regno borbonico, del regno di Francia, come Monsieur l'ambassadeur. E si dice che Talleyrand abbia risposto: ambassadeur, emballeur plutôt, cioè ambasciatore, imballatore, perché doveva imballare le opere d'arte. Quindi, ma pensate che intanto questo capitolo della vita di Canova è molto poco conosciuto, cioè noi conosciamo Canova come artista, ma come diplomatico e recuperatore d'opere d'arte se ne sa molto poco. C'è stata a Roma una mostra che poi proprio si è accavallata con l'uscita del libro, per cui io non ne parlo, ma solo di striscio, perché la mostra l'ho vista dopo che il libro è uscito, perché non poteva, cioè non c'erano i tempi tecnici, insomma, e quindi è stata dedicata una mostra alla sua opera di recupero, ma no, è un capitolo completamente sconosciuto. Pensate che non c'è nemmeno un libro, niente, che ricostruisca la sua attività a Parigi. E c'è una tesi di dottorato che io ho usato, di una professoressa di storia dell'arte dell'Università di Milano, che si chiama Franca Zuccoli, e mi raccontava che quando è andata a Parigi, al Louvre, dicendo voglio scrivere di Canova, l'hanno guardata malissimo, perché tutt'oggi Canova dai francesi, non da tutti i francesi perché molti non sanno neanche chi sia, al Louvre è considerato un traditore, perché è uno che era venuto a fare le statue di Napoleone, che era stato glorificato da Napoleone, eccetera eccetera, torna e si prende le opere d'arte che erano lì, perché l'idea appunto non è che i francesi abbiamo detto sì vabbè, insomma, le abbiamo portate via, ci è andata male e vabbè, insomma, adesso dobbiamo fare con un viso cattivo gioco, riprendetevele, ma neanche per sogno, non volevano saperne di ridare indietro queste opere d'arte. Infatti tutti gli sgomberi, è una storia affascinante, gli sgomberi avvengono tutti sulla punta delle baionette con i soldati prussiani, non a caso francesi e tedeschi, no? Con i soldati prussiani che vanno dentro al Louvre con i fucili, con le baionette inastate a proteggere i vari commissari dei vari stati che staccano le opere d'arte dalle pareti del Louvre, con i francesi che non ne voglio sapere. Addirittura c'è una scena che io descrivo, il commissario Sabaudo, a un certo punto del regno di Sardegna, viene inseguito dal segretario del Louvre che gli urla dietro chiamando la gente: venite, ci ruba le opere d'arte, cioè delle scene. Oppure quando portano giù dall'Arco di Trionfo del Carrousel du Louvre i cavalli della Basilica di Venezia, che a sua volta Venezia aveva saccheggiato a Costantinopoli nel 1204, insomma, poi le storie sono lunghe, ma quando vengono tirati giù i cavalli della quadriga marciana, insomma, cioè, si crea un assembramento che deve essere tenuto a bada dalle truppe, perché i parigini si stavano rivoltando, stavano veramente dando vita a una sommossa, perché non volevano che i cavalli di Venezia tornassero a Venezia. Quindi l'atmosfera era questa. E Canova viene mandato a Parigi proprio con un colpo di genio del segretario di Stato, il cardinale Consalvi, che contro tutte le aspettative, perché il trattato di pace di Tolentino, che regolava i rapporti tra la Francia e lo Stato della Chiesa, era ancora in vigore, non era stato abrogato e non c'era nessuna intenzione di abrogarlo, per cui siccome la consegna delle opere d'arte era prevista dal trattato di pace, in teoria lo Stato della Chiesa non aveva diritto a niente. Tanto che quando Canova va a Parigi viene ricevuto da re Luigi XVIII, e il re gli dice: mi dispiace tanto che un artista della sua fama e notorietà sia venuto a Parigi per niente. Però, e qui si inserisce il cambio di passo e il colpo di genio del cardinale, devo dire che si sanno fare queste cose, il Vaticano sono secondi a nessuno. E quindi lo stesso il re di Francia gli dice: ma non è che mi faccia un busto? E quindi il fatto che Canova fosse l'artista più famoso, più conosciuto, non c'è un confronto oggi, non credo che ci sia un artista ai nostri giorni, no, forse Elton John può essere in qualche modo paragonato, cioè una persona di una tale fama, così conosciuto, così famoso in tutto il mondo di allora, no? E quindi appunto gli chiede il ritratto. Poi gli inglesi sono una chiave di volta, sono loro che poi decidono che le opere d'arte sarebbero state restituite. Il duca di Wellington gli dice anche lui: ma non è che mi fai una statua? E Canova, che non doveva essere tanto mona, come si dice, gli risponde: ma certo, ho giusto un cavallo che avevo fatto per Napoleone, siccome lei è colui quale ha disarcionato Napoleone, ora ha diritto di salire in sella a questo cavallo. E quindi così si insinua rompe il fronte della diplomazia, che è contraria alle istituzioni. I russi rimarranno contrari, ma a un certo punto Alessandro II, mi parlo, lo zar, non voglio sbagliare, va via da Parigi dando ordine che non venga restituito niente, però poi se ne va e quindi lasciano perdere. E riesce a rompere il fronte avversario e quindi a poter recuperare le opere d'arte che erano state portate via dallo Stato della Chiesa. Dicevo, gli inglesi sono una chiave di volta, che a un certo punto ogni tanto anche loro nella realpolitik avevano qualche spinta ideale e decidono che non è giusto che gli stati piccoli non abbiano niente, che soltanto quelli che erano andati a Parigi con il proprio esercito potessero recuperare le opere d'arte, e quindi prussiani, austriaci, inglesi, russi non avevano avuto danni, per cui non avevano niente da recuperare, ma insomma anche dalla Germania erano state portate via una quantità immane di opere d'arte, no? E quindi avevano i soldati lì e potevano riprendersele. Tutti gli stati italiani non avevano i soldati, per cui insomma avevano bisogno degli appoggi degli altri. A un certo punto gli inglesi decidono: no, ma non è giusto, anche i Savoia, anche i Ducati, anche lo Stato della Chiesa ha diritto di avere indietro le opere d'arte. E per cui insomma appunto si comincia a restituire anche le opere di questi stati cosiddetti minori, che non potevano contare su una forza propria, ma vengono imprestati i soldati, appunto, dicevo, soprattutto i soldati prussiani. C'è proprio un presidio militare fuori dal Louvre con un ufficiale prussiano che lo comanda, un drappello di soldati che stazionano al Louvre e vengono utilizzati per recuperare queste opere d'arte. Tornano circa la metà delle opere d'arte che erano state predate dallo Stato della Chiesa. Quindi non tornano tutte quelle che stavano al Louvre, perché poi si raggiungono degli accomodamenti, si decide di lasciare qualcosa, insomma, va bene così. E non tornano quelle che erano state portate nel Palazzo Reale, perché facevano parte della collezione privata del sovrano, per cui rimangono lì, e non tornano tutte quelle che erano state mandate nei musei dipartimentali. Quindi, per esempio, e questa è una cosa abbastanza curiosa, non tornano nulla del Perugino, perché siccome il direttore del Louvre, Vivant Denon, non piaceva Perugino, quando ci sono arrivati qua del Perugino, ho detto: ma che è sta roba? Via, via! E l'ha mandata fuori. E per cui è rimasta a Caen, è rimasto il lo sposalizio della Vergine del Perugino, che è il quadro da cui si è ispirato Raffaello per il suo sposalizio della Vergine, e questi due quadri sono stati per la prima volta messi uno a fianco all'altro 2 anni fa alla Pinacoteca di Brera a Milano, e sono chiaramente ispirati, sono lo stesso soggetto, solo che uno è dipinto da Perugino, cioè Cosuccia da nulla, no? Uno è dipinto da Perugino, uno è dipinto da Raffaello, e sono tutte e due vittime dei saccheggi napoleonici, perché quello che sta appunto in Francia è stato mandato a Caen perché a Denon piaceva e quindi lì è rimasto, quello che si trova alla Pinacoteca di Brera invece stava a Perugia, è stato regalato tra virgolette, cioè un generale napoleonico di Brescia, il generale Lecchi, se l'è fatto regalare, se l'è portato a casa, poi l'ha venduto a un collezionista privata che l'ha a sua volta ceduto, regalato al viceré Eugenio, che l'ha dato alla Pinacoteca di Brera. Questo è il motivo per cui oggi quel quadro si trova a Brera, ma sono tutte e due quadri che appunto si sono mossi dalla loro sede naturale nel periodo napoleonico. Canova, che era nato nel territorio della Repubblica Veneta, perché era nato a Possagno, in provincia di Treviso, quindi insomma era in qualche modo legato a Venezia, però in realtà è il commissario pontificio, quindi recupera le opere d'arte dello Stato della Chiesa, non degli altri stati italiani che avevano i propri rappresentanti. Nella fattispecie il Lombardo-Veneto aveva un commissario austriaco mandato da Vienna, che era un pittore italo-viennese che si chiamava Rosa, che invece contrariamente a Canova, che era bello sveglio, questo qua doveva essere un po' così, non un tontolone, perché stava lasciando a Parigi il codice atlantico di Leonardo da Vinci, perché pensava che fosse un codice cinese, perché sapete che Leonardo scrive alla rovescia, no? E siccome non capiva niente, ha detto sì, è cinese, ed è stato Canova che per fortuna si è immischiato in un affare che non lo riguardava e gli ha detto no, ma guarda che non è cinese, è Leonardo. E quindi il codice atlantico è tornato alla Pinacoteca Ambrosiana, dove si trova tuttora, grazie a questa interferenza di Canova, che non si è fatto i fatti propri. Poi comunque i francesi sono consolati con 11 codici virgolette minori, perché insomma Leonardo tanto minore non è, che sono rimasti a Parigi e sono lì tutt'oggi. Ecco. Sì, scusa Alessandro se ogni tanto... No, sei un flusso, un fiume pieno. Parlo allora, troppo, no? No, è giusto che... Insomma, è un libro molto denso, ecco, da tutta una serie di, veramente, di informazioni e rivela tanto. La domanda che mi sono fatta è questa. Come ha potuto poi, in fondo, un esercito così malmesso come quello napoleonico, un esercito di straccioni... a tutto sommato operare queste razzie, e tecnicamente com'era possibile, e chi sceglieva poi cosa prendere e cosa non prendere? Ecco. Beh, allora ci sono due aspetti. Quello che è stato preso per essere portato in Francia, che era c'era proprio una commissione, c'erano dei commissari. Napoleone viene seguito da un gruppo di dotti capitanati da un matematico che si chiamava Gaspard Monge, che odiava gli italiani, li riteneva dei grezzi, bigotti, sì, esatto, superstiziosi, quindi non meritevoli di avere queste opere d'arte che invece dovevano essere portate nel paese della libertà, che sceglievano le cose da prendere, e spesso le sceglievano anche in base ai libri di viaggio, per esempio, dei viaggiatori della fine del 600 e primo 700, che per esempio a Bologna, quelle del Grand Tour, esatto, c'era una patronna, sì, se la sono andata a prendere, la porta in Francia. Non hanno portato via solo opere d'arte, hanno portato via anche collezioni scientifiche, erbari, monete, persino una mandria di bufali, perché voleva una mandria di bufali con le istruzioni, con i manuali per allevare i bufali, che hanno fatto tradurre in francese perché volevano cominciare a produrre mozzarella di bufala in Provenza, poi non gli è andata bene, quindi non le hanno fatte, però hanno aggiogato un corteo di carri che partiva da Roma carico di opere d'arte predate, di libri, anche c'è tutto il capitolo dei libri, poi è infinito, predate a Roma, hanno giocato alla mandria di bufali, che sono di bufale che dovevano servire a fare la mozzarella, quindi hanno portato via di tutto. Poi il saccheggio in realtà continua, perché noi parliamo di saccheggio napoleonico per comodità, ma il saccheggio napoleonico comincia nel 1796 e va avanti fino al 1811, perché poi dopo ci sono i prelievi di cui vi ho già accennato dei musei locali, no? Della Pinacoteca di Brera, della Galleria di Venezia, perché venivano soppressi i conventi, svuotati dalle opere d'arte, venivano messi nei depositi e ognuno si prendeva quello che voleva. Pensate che a un certo punto nel Palazzo Ducale a Venezia sono stoccati 12.000 quadri, 12.000, presi dai vari monasteri e enti soppressi di Venezia, non della Repubblica Veneta, di Venezia, da cui ognuno si pigliava. Poi a un certo punto questi quadri erano talmente tanti che venivano inflazionati che sono arrivati a grattare i dipinti, perché la tela grezza valeva più del quadro. Cioè, pensate cosa è successo in quegli anni, no? E poi c'è appunto alla fine, Vivant de Noc, siccome in base ai gusti dell'epoca i commissari bonapartisti avevano portato via opere d'arte rinascimentali, quindi mancava tutto il Medioevo, Vivant de Noc viene a riempire il buco e porta via tutta una serie di opere d'arte invece medievali, Giotto, così, Cimabue, Madonna in trono di Cimabue che c'è a Louvre, è stata portata via da Vivant de Noc. Ma poi quello che secondo me quello di cui non ci rendiamo conto, di cui sappiamo pochissimo, non è tanto quello che hanno portato via, perché io, se voglio andarmi a vedere le nozze di Cana, non ne abbiamo parlato, insomma, sono ciò da cui è nato questo libro, le nozze di Cana del Veronese, che stavano a Venezia e che oggi sono al Louvre, vado al Louvre e me le vedo. Il problema è tutto quello che è sparito e non abbiamo neanche più idea di cosa fosse. Cioè, le chiese erano coperte di tessuti preziosi che scendevano dal soffitto fino al pavimento, tessuti con fili d'oro e fili d'argento, per pietre preziose, che sono stati bruciati per ricavarne il metallo prezioso. Le arti plastiche erano considerate preziose, degne di essere trasportate soltanto le statue di marmo, per cui tutto quello che non era stato di marmo veniva buttato, le terrecotte buttate, non interessava niente a nessuno. Le bassorilievi, le lapidi, eccetera, materiale da costruzione, quindi venivano rovesciate e usate per costruire le case. I polittici medievali venivano tolti i dipinti, ma le cornici, siccome non piacevano, diventavano legna da ardere. Ma erano cornici coeve, cioè erano cornici del 300, del 400, spesso decorate dallo stesso pittore che aveva fatto il quadro, e venivano buttate via. Rubavano i libri, le biblioteche fatte a pezzi e usate come legna da ardere. Per cui quello di cui noi non sappiamo è tutto l'enorme patrimonio che è stato disperso e non abbiamo idea di come fosse. Dal tesoro della Basilica del Santo a Padova c'erano 80 lampade, quasi tutte d'argento, alcune d'oro. Queste lampade, tutto ciò che era metallo prezioso veniva fuso, veniva ridotto in lingotti per fare monete. Come erano queste 80 lampade? Erano rinascimentali, erano medievali, erano barocche, erano belle, erano brutte, erano grandi, erano piccole. Non sappiamo assolutamente nulla, sappiamo solo che c'erano e che non ci sono più. Ecco, questo è un po' l'idea. E il saccheggio napoleonico del 1796 sostanzialmente apre delle dighe che non sono mai richiuse, perché poi di fatto purtroppo le opere d'arte continuano a essere rubate. È vero, tant'è che tu nella seconda parte, diciamo, del libro, quindi da Canova, poi invece fai parli di Rodolfo Sibiero, dici e affermi che tutto sommato la seconda guerra mondiale non è ancora finita in questo senso, perché ci sono ancora opere di cui non sappiamo appunto la collocazione. Volevo anche però concludere il precedente capitolo canoviano. Lo stesso Canova, però, operazione conclusa, e si conclusa positivamente, quando si trova a Londra, ammira i fregi del Partenone che erano lì, ma non si pone il problema di riportarli al loro luogo di origine. E quindi, così come altre cose. Allora, passiamo da Canova, anche se ribadisco, insomma, non basterebbe un'intera serata, insomma, per addentrarci. E arriviamo al 1943, ma soprattutto parliamo un po' raccontaci un po' di questa figura sfaccettata di Rodolfo Siviero, no? Che non nasce propriamente come uno storico dell'arte, né, non è un accademico, è un personaggio alquanto complicato, che però sarà colui che recupererà la maggior parte dei dipinti, statue e altre opere, per cui il libro assume anche un aspetto veramente quasi un libro di spionaggio, no? Questo personaggio era tutto sommato ambiguo, no? Mal visto dagli inglesi e dagli americani. Ecco, però Rodolfo Siviero, tutto sommato, non da solo, perché poi ci saranno tutta un'altra serie di sia cittadini, rappresentanti del clero, insomma, nella sua missione è aiutato e coadiuvato da altre persone. Ce lo vuoi raccontare un po' di più questo personaggio? Sì, ecco, mentre diciamo l'eroe dell'epoca napoleonica è soprattutto Canova, invece nel dopoguerra, dal 43 in poi, ci sono parecchi eroi e anche alcune eroine, perché poi anche mi piace sottolineare che in Italia, oltre ai Monuments Men, ci sono state anche delle Monuments Women, delle donne che si sono impegnate per recuperare le opere d'arte. E anche le figure ambigue sono parecchie, perché c'è questa, appunto, Canova e poi, Siviero, ma poi anche questo Ante Topić Mimara, che è un personaggio incredibile, che non sappiamo neanche se si chiamasse davvero Ante Topić Mimara. E dunque, intanto, forse la premessa è meglio spiegare, perché il saccheggio nazista si divide in due parti. Prima dell'8 settembre del 43, quando i tedeschi compravano opere d'arte, e dopo l'8 settembre del 43, quando si pigliavano quello che volevano perché avevano occupato l'Italia. Quindi, vi avevo accennato prima, Göring e Hitler avevano dei commissari, degli inviati personali in Italia che compravano, e gli antiquari erano ben felici di vendere. E addirittura nel 40 c'è questa mitica gita di shopping di Göring a Firenze, in cui gli antiquari fanno spazzare a loro spese le strade, perché aveva nevicato, fanno spazzare a loro spese le strade di Firenze perché Göring abbia maggior agio di andare a fare le sue spesucce. E quindi il recupero di queste opere, delle opere d'arte comprate prima dell'8 settembre 1943, era molto in forse, perché i tedeschi non le volevano restituire, perché dicono: scusa, sono state comprate, se gli italiani hanno cambiato i regolamenti per permettere l'esportazione di opere d'arte che non erano esportabili, sono affari degli italiani, non nostri. E se ci pensate, non è che avessero tutti i torti, eh. Siccome però l'arte è politica, si è deciso, gli americani hanno deciso come decisione politica, queste opere d'arte andavano restituite, per fortuna, aggiungo io. E Siviero era un personaggio molto strano, perché non sappiamo esattamente cosa avesse fatto prima dell'8 settembre del 43. Lui racconta nella sua memoria di aver fatto la spia, di essere stato un agente segreto della polizia fascista. Dobbiamo credere sulla fiducia, perché non c'è nessun riscontro, non ci sono documenti che comprovino la sua attività precedente. Aveva soldi che non si sa come, da dove venissero fuori, perché era un piccolo collezionista di opere d'arte, ma non, siccome praticamente non lavorava, era uno spiantato, non si capisce da dove ottenesse i soldi per comprare queste opere d'arte. Però, insomma, era fascista anche, infatti per questo poi gli americani non avranno mai, lo ostaggeranno sempre, sempre, perché appunto non erano memori del suo passato fascista, mentre gli inglesi più realisti poi accetteranno di collaborare con lui. E si mette, dopo l'8 settembre e quindi l'occupazione tedesca, si mette a inseguire e a cercare di salvare le opere d'arte fiorentine, perché era basato, Siviero stava a Firenze, aveva organizzato una banda partigiana in Toscana, tra l'altro coadiuvato da carabinieri che erano fedeli alla monarchia e non al regime, e quindi insomma si era dato da fare in questo senso. La prima grande operazione che fa è di mettere in salvo la collezione di De Chirico, Giorgio De Chirico, stava a Firenze, la moglie di De Chirico era ebrea, per cui si erano dovuti rifugiare in campagna per sottrarsi agli rastrellamenti dei tedeschi, e la collezione era in casa, affidata a una cameriera che era nazista, aveva simpatia nazista, perché insomma stava insieme con un militare tedesco. E quindi Sivier organizza uno sgombero insieme a due suoi amici carabinieri, si fanno prestare un camion, vanno a casa De Chirico vestiti da poliziotti, anche questo è divertente, i carabinieri vestono da poliziotti, vabbè insomma, e inscenano, uno di questi due carabinieri fa finta di interrogare la cameriera dicendo che erano a caccia di ebrei e di partigiani, per cui inscena un interrogatorio, e dietro le spalle, tipo i cartoni animati di Gatto Silvestro, non so se avete, Siviero e l'altro carabiniere cominciano a pigliare, prendono i quadri della collezione di Chirico, li caricano in questo camion, li portano a Palazzo Pitti, d'accordo con il sovrintendente, vengono murati dentro una nicchia e vengono messi in salvo. E così insomma una serie di operazioni. Tra l'altro insomma il gruppo di partigiani di Siviero ha anche due uomini che vengono uccisi in combattimento, quindi insomma non era una cosa così, una passeggiatina di quattro svitati che si divertivano a salvare i quadri, erano missioni anche pericolose. E tra l'altro uno degli uomini di Siviero pare che sia arrivato fino a me, lui lo dice, che sia arrivato fin qui, che abbia seguito le opere d'arte che erano di Firenze, che erano state sgomberate dai depositi nelle ville toscane e portate qui in Alto Adige a San Leonardo in Passiria e a Campo Tures, e che le abbia seguite per capire dove fossero. Poi in realtà tutti sapevano dove erano, magari poi ne parliamo. Gli unici che non sapevano dove erano i Monuments Men americani. Vabbè, insomma. E quindi insomma sì, aveva organizzato delle operazioni piuttosto importanti, e continua dopo la guerra, perché poi l'opera di Siviero è più importante di tutte. Perché? Perché va avanti fino agli anni 70, diventa incaricato prima del Ministero della Pubblica Istruzione, che aveva competenza, non esisteva il Ministero dei Beni Culturali, no? Quindi le opere d'arte erano di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione, poi del Ministero degli Esteri, e quindi diventa il direttore dell'ufficio Recuperi della Farnesina. C'è ancora l'ufficio di Siviero, esiste ancora a Roma, c'è un'anziana segretaria che tiene l'archivio nei sotterranei di Palazzo Venezia, e va avanti fino agli anni 70, addirittura realizzando un record, perché recupera due volte lo stesso quadro, il ritratto di uomo di Memling che era stato saccheggiato dai nazisti, lo recupera, poi viene rirubato negli anni 70, tra l'altro sempre da tedeschi che avevano avuto a che fare da un reduce della Wehrmacht, che lo porta in America, tenta di venderlo, insomma, poi riesce, lo recupera due volte questo quadro, si viene, e riporta in Italia 3.000 opere d'arte, che insomma è una cifra di tutto rispetto. E anche lì il pezzo più clamoroso è il discobolo di Mirone, no? Avete presente il discobolo Lancellotti, che a Roma ottiene, ecco questo è importante, Siviero ottiene l'unica modifica del trattato di pace. L'unica modifica concessa dagli anglo-americani all'Italia è quella di poter recuperare e riportare in Italia anche le opere d'arte, come vi dicevo prima, comprate dai tedeschi. Perché? Casualmente l'annuncio di questa modifica avviene due settimane prima delle elezioni del 18 aprile del 48, cioè quando si giocava, in teoria, poi non era così, ma insomma in teoria si giocava la permanenza dell'Italia nel campo occidentale o il passaggio nel campo sovietico. Non sarebbe mai avvenuto, perché c'era Yalta, però insomma non lo sapevano ai tempi, per cui pur di favorire la Democrazia Cristiana e i moderati, gli americani concedono il recupero di queste opere d'arte. E la prima opera d'arte che torna nel novembre 48 è il discobolo di Mirone, che era uscito nel 38, è stata la prima opera d'arte importante a essere comprata dai nazisti e a essere portata in Germania. Tra l'altro, e questa è una cosa che devo dire, ho scoperto e mi ha molto divertito, perché l'ho scoperta grazie a un documento che ho trovato nell'archivio di Londra. Il discobolo di Mirone è stato pagato con un telescopio, cioè i tedeschi in cambio del discobolo Mirone dovevano mandare a Roma un telescopio prodotto dalla Carl Zeiss Siena, che non è mai arrivato, però, perché siamo nel 38, poi è scoppiata la guerra, questo telescopio non è mai stato mandato in Italia. E cosa è successo? Jena, quindi siamo in Sassonia, parte occupata dall'Armata Rossa, i russi se lo sono portati a San Pietroburgo. E adesso me l'ha raccontato proprio un astronomo dell'osservatorio, a San Pietroburgo usano un telescopio che gli astronomi russi hanno soprannominato il telescopio Mussolini, perché è quel telescopio lì che è stato portato via dai russi a Jena. E in sovrappiù i tedeschi nel 1944 si erano pure portati via le cupole dell'osservatorio, invece di dare il telescopio che non hanno mai dato, si sono portati via le cupole di ferro, insomma, che chiudevano l'osservatorio, che poi sono state ricostruite. Appunto questo astronomo mi diceva: ma sì, perché nel 38 si racconta che sia stata data una copia di una scultura classica. Ho detto: no, guardi che non era una copia, era il discovolo di Milone. Poi il discovolo di Milone è una copia romana di un originale greco, però insomma è una cosa piuttosto importante. E quindi appunto torna nel 48 e tornano tutta una serie di opere d'arte assieme a fianco a Siviero. Sì, sono, operano molti altri, soprattutto sovrintendenti, per esempio Rotondi nelle Marche, anche questo qui non si è saputo nulla fino a pochi anni fa, perché non aveva mai raccontato quello che aveva fatto in vita, e sgombra delle opere d'arte che erano nelle Marche. A un certo punto le opere d'arte più piccole se le porta a casa, le mette sotto il letto. Tra queste opere d'arte più piccole che aveva sotto il letto c'era la Tempesta del Giorgione delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, perché la moglie, che era anche lei una storica dell'arte, si finge malata in modo da rimanere a letto, in modo che nessuno, nemmeno i figli, si avvicinassero al letto e si rendessero conto di cosa stava sotto il letto. Poi le hanno portate a Roma sotto la protezione del Vaticano, le hanno messe a Castel Sant'Angelo e si sono salvate. Oppure mi accennavo a queste Monuments Women, posso dire o dovevo mandarmelo? Forse ecco, facciamo una piccola discussione. No, io vado avanti. I Monuments Men nascono come organismo proprio specializzato nella salvezza. Chi invece, l'invenzione a chi si deve? Quella proprio del corpo dei Monuments Men and Women? Ma sì, c'erano già nella prima guerra mondiale in realtà, perché è una storia lunga. Non so se sapete che i tedeschi, una delle prime cose che hanno fatto in Belgio, hanno raso al suolo Lovanio, la città di Lovanio, la biblioteca di Lovanio, che era una biblioteca preziosissima, e quindi questo già nel 14, e quindi vengono messi in piedi dei reparti per la salvaguardia delle opere d'arte. I tedeschi Kunstschutz, che avevano sia i tedeschi sia gli austriaci, operano anche in Italia per zone occupate. Questa è una cosa che nel libro non c'è, che ho scoperto dopo, ma gli austriaci hanno saccheggiato soprattutto in provincia di Belluno le ville venete, non so, la biblioteca di Buzzati per esempio, non di Dino Buzzati, perché Dino Buzzati era nato nel 1902, e quindi, ma quella non so se era il nonno o il prozio, insomma, l'importanza era la biblioteca più importante della del bellunese. Hanno riempito 220 casse con i libri di casa Buzzati, sono finiti a Vienna, e se non sono mai tornati, se non in piccola parte. Tanto che mi diceva la pronipote che tutt'oggi ogni tanto nel mercato antiquario vengono fuori dei libri con l'ex libris Buzzati, no? Perché magari uno a Vienna sgombra la biblioteca del nonno, la vende all'ingrosso e dentro ci sono questi libri. Oppure l'estate scorsa, l'estate 2017, è stato individuato un sarcofago romano che è stato saccheggiato da una villa di Cesio Maggiore vicino a Feltre, che sta in un castello della Bassa Austria, che hanno detto c'è un sito, gli austriaci sono precisi, no? Quindi c'è un sito con tutte le antichità romane dell'Austria, e questo c'è scritto dove provenienza Feltre, peccato che l'abbiano portato via nel 17-18 quando hanno occupato la provincia di Belluno. E così anche nella seconda guerra mondiale c'erano, anche i tedeschi avevano i loro monuments men, questo Kunstschutz che operava insieme all'esercito germanico, era formato da professori di storia dell'arte che si dovevano occupare della salvaguardia delle opere d'arte. E effettivamente questa è una cosa che va detta: non ci sono buoni e cattivi, perché tutti distruggono e tutti salvano. gli italiani, parlavo prima di Siviero, poi c'è un altro capo partigiano, Pietro Ferraro a Venezia, una figura assolutamente sconosciuta che insomma, ho un po' ricostruito io la sua attività grazie al suo archivio, ma il capo delle belle arti della Repubblica di Salò, che si chiamava Carlo Anti, quindi assolutamente fascista perché insomma era andato a Salò, però non esita a mettersi d'accordo con i partigiani per salvare le opere d'arte. I tedeschi nel sud, a Nola, fanno una delle cose peggiori nei confronti delle opere d'arte che avevano mai fatto, perché per rappresaglia bruciano dei depositi dove erano contenuti, dove stavano gli oggetti esposti al Museo Filangieri di Napoli e l'archivio Angioino del Regno di Napoli. Per cui l'archivio Angioino di Napoli è andato perduto e tutto ciò che stava dentro il Museo Filangieri è andato perduto perché i tedeschi gli hanno dato fuoco, ma apposta, non per sbaglio. D'altra parte gli stessi tedeschi svuotano l'abbazia di Monte Cassino e sono loro a salvare tutto, perché anche questo secondo me è un aspetto interessantissimo. I tedeschi si sono resi conto che l'abbazia di Monte Cassino sarebbe stata distrutta prima che gli americani decidessero di distruggerla, perché stava al fronte, insomma era gente che più o meno sapeva come si faceva la guerra, per cui si erano resi conto che sta roba era destinata ad andare e l'hanno svuotata, e quindi hanno salvato tutto quello che stava, insomma un'abbazia di 1000 anni, per cui di cose ce n'erano parecchie, e tutto quello che era stato portato soprattutto da Napoli, l'hanno portato a Spoleto, l'hanno salvato, poi una parte era stata portata dal Tausee, quindi dal Salisburghese, poi è tornata in Italia. Quindi sono loro stessi, qualcuno salva, qualcuno distrugge. E gli uomini del Kunstschutz cercavano di salvare le opere d'arte dagli uomini di Göring che le rubavano per farne omaggio a Göring. E tutto questo eravamo partiti perché? Eravamo partiti dalla protezione delle opere d'arte, dei Monuments Men. Quindi l'idea di avere questi reparti per salvare le opere d'arte era precedente, insomma non riguardava solo la Seconda Guerra Mondiale. Gli americani appunto hanno messo in piedi questo reparto, questi Monuments Men, che è diventato famoso per il film che hanno fatto, perché come aveva detto il generale Alexander, fare la guerra in Italia è come fare la guerra in un fottuto museo, perché ovunque andassero distruggevano qualcosa, e per cui allora cercavano di conquistare i cuori e le menti, no? Oggi ci vadano molto meno queste cose purtroppo, ma insomma, e quindi creano questo reparto per che doveva in qualche modo cercare di salvare le opere d'arte che si trovavano nelle zone di combattimento, perché poi questo era. E lo stesso, gli italiani avevano queste figure di sovrintendenti che non esisteva un reparto di Monuments Men italiani, che però si davano da fare privatamente, a proprie spese, perché pensate che tutti quelli che non erano andati, che non avevano seguito la Repubblica Sociale, erano stati licenziati. Tra questi il nome più famoso, Giulio Claudio Argan, che poi diventerà sindaco di Roma, forse qualcuno di voi avrà studiato sui libri di storia dell'arte dell'Argan, era quello lì, che è rimasto senza stipendio, comunque a proprie spese cerca di fare quello che può per salvare le opere d'arte romane, tanto che Rotondi, quello che vi dicevo prima, quando manda i quadri dalle Marche, prepara anche un pacchetto di salami e formaggi di formaggio pecorino per Argan, perché nelle Marche si trovava qualcosa da mangiare, a Roma non si trovava niente, e quindi gli manda i salami. Poi insomma i livelli erano, ahimè, purtroppo le condizioni erano queste. E poi appunto dicevo di queste donne che erano le sovrintendenti, anche loro, quindi insomma facevano parte dei dipendenti pubblici, insomma delle sovrintendenze italiane: Noemi Gabrielli a Torino, Palma Bucarelli a Roma e Fernanda Dittkens a Milano. Ecco, di Palma Bucarelli un po' si sapeva, si conosce l'attività, perché Palma Bucarelli era un personaggio, come si dice, era una nobile, discendeva da un viceré del Messico, faceva parte del jet set romano, era una donna di una bellezza sfolgorante che ha usato la sua fama e la sua bellezza per fargli sotto il naso ai tedeschi, quindi per salvare le opere. Poi tra l'altro era anche la compagna, poi moglie di Paolo Monelli, che era insomma forse l'inviato più famoso, l'inviato italiano, il giornalista italiano più famoso dell'epoca, per cui insomma era veramente un personaggio conosciutissimo. Invece Fernanda Wittgens a Milano, anche lì sono stato io che ho ricostruito la sua attività durante la guerra, perché si sapeva che aveva messo in salvo le opere d'arte di Barrera, però insomma nessuno è andato a studiare nell'archivio. Adesso mi hanno detto tra l'altro che ci sono varie tesi di dottorato in corso sulla sua figura, meno male, perché va assolutamente valorizzata. E lei, dopo aver messo in salvo le opere d'arte di Brera, si è anche dedicata a mettere in salvo le persone, per cui aiutava partigiani ed ebrei, è stata arrestata, processata, è finita in carcere, è stata messa a San Vittore, una sua compagna è stata anche torturata e ci sono i verbali delle torture che ha subito questa povera donna da parte degli italiani, perché poi noi teniamo sempre dalla colpa i tedeschi, no? I tedeschi cattivi, no no, erano stati gli italiani a torturare e a catturare, a torturare il gruppo di Fernanda Wittgens. Comunque insomma, subito dopo la guerra è l'artefice della ricostruzione di Brera. Brera è stata quasi completamente distrutta dai bombardamenti, cioè tre quarti delle sale erano state distrutte e lei appunto si impegna a ricostruirle. E questa è anche una cosa che secondo me va sottolineata: una delle prime cose che sono accadute nel dopoguerra è stata quella di riaprire i musei per dare il segno del ritorno alla normalità, cioè tornano le opere d'arte degli Uffizi e dipinti dai depositi dell'Alto Adige, tornano a Firenze e la prima cosa che si fa, si riaprono gli Uffizi e Palazzo Pitti, si rimette in sesto l'Accademia di Brera e si riapre l'Accademia di Brera per dare il segno del ritorno alla normalità. Ecco, pensate alla differenza che c'è oggi quando i musei invece vengono chiusi e non si possono vedere perché mancano i custodi. Allora, io a questo punto chiederei se ci sono domande da parte del pubblico. Ci racconta un po' questo tipo di vicende in rapporto all'Alto Adige? Sì, l'Alto Adige ha avuto un ruolo abbastanza centrale. In quest'altro, quella foto di copertina è stata scattata, adesso non so in quale di questi due depositi, ma è stata scattata qua in Alto Adige. Erano perché San Leonardo impazzire Campo Tures, perché non erano né Italia né Germania sostanzialmente, perché i tedeschi o erano sia Italia sia Germania, come volete, i tedeschi sgomberano le opere d'arte dalle ville della Toscana. Allora, magari facciamo una piccola premessa perché non ve l'ho detto: nel 40 le opere d'arte vengono portate fuori dalle città per timore dei bombardamenti aerei e quindi vengono portate in campagna, molte finiscono in Toscana e nelle Marche, e la Toscana e le Marche poi nel 44 si ritrovano sulla linea gotica, per cui sono zona di combattimento e devono essere risgomberate perché sono proprio dove si combatte. Quindi, come avevo detto prima, le opere d'arte che stavano nelle Marche vengono portate in Vaticano, quelle fiorentine non si sa perché, ma vengono lasciate lì, cioè il sovrintendente di Firenze non le sgombera e quindi le sgomberano i tedeschi e le portano via. Non le portano in Germania perché insomma in qualche modo dovevano far finta che queste opere d'arte rimanessero di pertinenza dello Stato italiano, e quindi le portano in Alto Adige perché l'Alto Adige era Reich, però in teoria era ancora Repubblica Sociale, quindi esisteva una specie di giurisdizione italiana, anche se poi di fatto non veniva esercitata. Secondo me aveva giocato, da quello che ho capito, aveva giocato anche un ruolo il Gauleiter del Tirolo, Hofer, in quei tempi, che era un, in qualche modo voleva vendicarsi, era un mangia italiano questo qui, credo che sia strano, vabbè, lasciamo andare, ma insomma comunque voleva vendicarsi dell'unione, come risarcimento insomma del fatto che nel 18 l'Italia si era presa sul Tirolo, allora si piglia queste opere d'arte e se le tiene e le trattiene. Infatti non fa entrare nessun italiano, a un certo punto gli dice nessun italiano deve mettere piede nei depositi, dove tra l'altro ritrovano poi casse di champagne, insomma, vabbè, perché poi tutto il mondo è paese, no? E quindi si divertiva questo signor Herrhofer. Comunque, vabbè, e le portano perché erano in una specie di limbo, quindi stavano qui, stavano in questi depositi, però poi sappiamo che nel 45 dovevano essere risgomberate e portate ad Althausen, portate in Germania, perché Marty Bormann, segretario di Hitler, emana un ordine perché le opere d'arte che si trovavano in Alto Adige vengano portate in Germania. Ordine che non viene eseguito. Perché? Beh, un po' perché perché ormai siamo a ridosso del 25 aprile, per cui, ma perché il comandante delle SS d'Italia, il generale Carlo Wolf, ha usato queste opere d'arte come merce di scambio. Questo è un capitolo che non conoscevo neanche io esattamente della storia della fine della seconda guerra mondiale, ma la resa dei tedeschi in Italia viene trattata dal generale Wolf in maniera indipendente da Berlino, senza che Berlino lo sapesse, con gravi rischi, perché insomma non è che un generale, per quanto fosse importante, potesse trattare una resa. E quindi Wolf va clandestinamente in Svizzera a incontrarsi clandestinamente con il capo dei servizi segreti americani Alan Dulles, che poi sarà il fondatore della CIA sostanzialmente, con la mediazione svizzera, perché neanche gli americani potevano trattare, cioè non è che uno si metteva a trattare con un tedesco, però insomma alla fine organizzano questa resa. E una delle, uno dei pegni che dà Wolf per dimostrare la sua buona volontà sono due album fotografici con le foto delle opere d'arte che stavano qui a Campotures e San Leonardo in Passivia, per dire: io le ho, guardate, e mettiamoci d'accordo perché poi ve le restituisco. Per cui vengono proprio usate come, come merce di scambio, tra l'altro anche con delle cose divertenti. A un certo punto i fotografi cioè vanno a fare un'ispezione, non so se gli uomini di Wolf, e trovano che queste opere, i fotografi avevano tirato fuori le opere d'arte dai depositi, no? Che erano, poi era un castello, insomma, degli edifici storici, e le mettevano nella neve per fotografare. Quindi hanno detto: oh, insomma, un po', non era proprio che andasse tanto bene mettere opere d'arte in mezzo alla neve. Comunque, insomma, questo è il motivo perché, per cui poi si salvano e non vengono portate. Non vengono portati in Germania, rimangono in Alto Adige, e quindi poi subito dopo il maggio, i primi di maggio del 45, vengono immediatamente riportate a Firenze con un'operazione propagandistica degli americani, con i cani, le bandiere, le opere d'arte fiorentine tornano a Firenze, insomma, a propaganda, no? E quindi vengono subito rimandate indietro e restituite. Agli Uffizi. Contrariamente invece a quello che era finito ad Althaus, con collezioni, dicevo prima, parte delle opere d'arte di Monte Cassino, collezioni private, sono cose sgomberate che non sono state sgomberate con più difficoltà. E poi c'è, ma adesso non facciamo tempo a parlarne, ma insomma, così ve lo leggete nel libro, ci sono ancora quelle che non sono mai state portate indietro, perché ci sono ancora 2487 oggetti secondo la lista che hanno, insomma, il database dei carabinieri del comando tutela del patrimonio culturale, che sono 2487 oggetti saccheggiati dai nazisti che non sono mai tornati in Italia. La maggior parte di questi non tornerà mai, perché non abbiamo le foto, ci sono solo le foto di circa 800, ma sicuramente una parte di questi oggetti sono finiti in Russia, perché i sovietici avevano, mentre gli americani hanno subito restituito le opere d'arte ai proprietari, o a quelli che loro ritenevano fossero i proprietari, come questo Antetopici Nimala, di cui non vi racconto, ma di cui leggerete perché è divertentissima questa storia. Ne ha scritto due giorni fa il sole 24 ore di questa cosa. E invece i sovietici hanno portato tutto in Russia, e hanno portato dalle zone della Germania occupate dall'Armata Rossa, hanno portato via 2.600.000 oggetti. 1.500.000 l'hanno restituito alla DDR nel 54, tipo, non so, l'altare di Pergamo, ecco, cosucce da niente, tipo quelle. E però poi balla 1.100.000 oggetti. In mezzo a questo 1.100.000 oggetti ci sono sicuramente anche alcune opere d'arte che i nazisti hanno saccheggiato in Italia, sono le opere d'arte, una parte delle opere d'arte che stavano nell'ambasciata italiana di Berlino, nell'ambasciata italiana di Varsavia. Si sa che nei sotterranei del museo Pushkin a Mosca c'è una sala con 100 quadri, un centinaio di quadri di provenienza italiana arrivati lì nel 45, ma mentre la Germania ha chiuso delle trattative con degli accordi con il governo di Mosca, ma di recente nel 2009-2008, per andare a cercarsi le opere d'arte tedesche, di proprietà tedesca, intendo dire, non di artisti tedeschi, portate in Russia nel 45, l'Italia non solo non ha mai chiuso, non ha neanche mai aperto trattative con la Russia, per cui quella roba è lì e sta là. E quindi confidiamo in un futuro in cui qualche ministro si si adoperi per in questa missione, no? È che in genere agli italiani questa roba interessa poco. Non interessa, abbiamo troppe cose, no? Un altro sì, questa, esatto, tante cose. Scusami, questa è una cosa che mi sento sempre ripetere, no? Anche perché ci sono questi otto quadri a Belgrado, qui è scritto il sole l'altro giorno, mi sento dire, ma abbiamo talmente tanto, sì, ma non è che se uno ha 100 milioni di euro allora gli rubo un milione perché ha tanto, non funziona così, no? Cioè, se le hanno portate via, dopodiché, siccome l'arte è politica, si possono trovare degli accordi, penso di averlo ampiamente dimostrato che l'arte è politica, e quindi secondo me, questa è una mia opinione personale, la cosa più importante è che queste opere d'arte siano viste. Perché anche noi abbiamo delle cose mai restituite, nel 1944 abbiamo portato per esempio quattro Carpaccio da Capodistria a Venezia, che sono a Venezia, ma non solo sono a Venezia chiusi in un magazzino, ma non si possono vedere, cioè sono stati inchiavardati e fino a qualche anno fa addirittura ne veniva negata l'esistenza. E quindi intanto facciamole vedere queste opere d'arte e dopo i governi si accorderanno sulla proprietà e su dove devono stare. Per cui ci sono 2487 oggetti che possiamo rivendicare e ci sono anche casse e casse di cose che dovremmo in teoria ridare a Capodistria e all'Istria in generale, ma che sono lì oggetto di contenzioso tra Italia e la Slovenia, contenzioso di cui penso che nessuno di voi abbia mai sentito parlare, non a caso, perché è un contenzioso durissimo di cui nessuno vuole parlare perché non si vuole arrivare a un accordo. Prego. Posso dire, c'è un vantaggio che tra la Croazia e l'Italia fanno parte dell'Unione Europea e credo che su questo fatto anche l'Unione Europea possa dire qualcosa. Invece diciamo con altri paesi. No, ma anche la Slovenia fa parte dell'Unione Europea. Non ci sono queste mediazioni. No, no, ma sono anche la Slovenia a parte dell'Unione Europea, ma insomma il discorso sarebbe lungo, perché se volete vi spiego anche brevemente, perché però poi andiamo avanti a oltranza. L'Italia, la tesi italiana è che queste opere d'arte facevano parte, erano opere d'arte italiane spostate all'interno del territorio italiano, perché nel 44, quando sono state portate, sgomberate, perché c'era stato un bombardamento a Capodistria, per questo erano portate via. Capodistria era Italia, per cui il problema non si poneva. Dopo sappiamo che sono andate a finire le cose e non sono state più restituite ai luoghi d'origine. La Slovenia dice no, stavano a Capodistria, devono tornare a Capodistria. Chi ha ragione, chi ha torto? Non esiste una ragione e un torto, perché il diritto non aiuta in questi casi. Appunto, vi dicevo, l'arte è politica, ci deve essere un accordo tra stati, d'accordo che non c'è mai stato, perché non si è mai voluti arrivare a parlarne, a determinare le cose. Devo dire che insomma una piccola responsabilità ce l'ho anch'io, perché io sono stato il primo in questo libro a scrivere di 67 casse di documenti che provenivano dall'archivio di Capodistria, che stavano al museo di Capodistria, che erano chiuse nella Marciana, nella biblioteca Marciana, e che nessuno mai aveva visto. Infatti nel libro c'è scritto questo, no? Case chiuse lì da 73 anni e nessuno ha più potuto consultare questi documenti. E siccome ne ho scritto, siccome avevo telefonato alla Farnesina, che lì è stata una cosa un po' surreale, no? Io sono giornalista, per cui ho chiamato l'ufficio stampa del Ministero degli Esteri, ho detto: sentite, ma cosa pensate di fare di queste 67 casse di Capodistria? Panico, non sapevo neanche di averle. Dopo ho saputo dalla console italiana a Capodistria che da Roma hanno telefonato a lei e gli hanno detto: ma scusa, che è sta roba? Lei non sapeva niente, ovviamente. Allora è andata all'archivio di Capodistria e l'archivio ha detto: ma cosa sono queste casse? L'archivio di Capodistria l'hanno guardata e hanno detto: scusa, ma tu vieni a chiedere a noi delle casse dell'archivio, siete voi che dovete dire a noi cosa volete fare di queste casse. Beh, insomma, dopo che ho sollevato un po' di polverone, queste casse adesso, questi documenti sono finiti all'archivio di Stato a Venezia, quindi sono sempre a Venezia, ma finalmente, se non sono già stati resi visibili, saranno entro breve, perché l'archivio è la struttura deputata a dare questi documenti agli studiosi che li vogliono consultare. Per cui insomma, se le carte dell'archivio di Capodistria sono nuovamente consultabili, è colpa mia, prendetevela con me. Va bene, allora ringraziamo l'autore di Missione Grande Bellezza per averci illuminato incontrato e raccontato in questo incontro. Allora, grazie Alessandro. Ci sarebbero state altre domande, ma sorvolo anche sulla missione fallita di Carla Bruni. Non raccontiamo tutto, perché insomma se no tutto, il resto lo troverete nel libro. Grazie allora a tutti. Grazie.